Rock Wave, l'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, buonasera da Rock Wave, buonasera da Blu Radio Veneto, buonasera da Maurizio Calzavara, da Michele Ottosoni regia e buonasera a Tao. Tao, ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti. Hai fatto buon viaggio da Milano? Buon viaggio. Un po' di 3 ore di coda, qualche coda. Sì, ma è un casino scappare da Milano, uscire da Milano, come se non ci fosse una forza negativa. Esattamente, che ti trattiene. Parlavamo io e te prima, non è una questione di fine vacanza, è sempre così praticamente. No, è sempre così anche perché molta gente lavora fuori Milano, certo. e quindi c'è insomma l'esodo di chi ritorna a casa. Esattamente, insomma. Alla sera chiaramente. Bene, stasera come ogni mercoledì di settembre, stavolta presentiamo un live. Io sono molto contento e anche assieme a me il nostro direttore artistico, che è Alberto Pisco, che ti ha voluto fortissimamente qua stasera. Sei venuto da Milano per presentare questo tuo doppio album, che è il terzo della tua discografia. Esattamente, il primo album risale al 2005, ha un nome insomma anche un po' ironico, si chiamava For Liverpool, si chiama For Liverpool. Quindi un po' di Inghilterra tra le righe. Sì, un po' di Inghilterra e un po' di Romagna, questo connubio improbabile, sì. Che però fa parte della mia personalità, certo. Che sono un po' gioviale, un po'... malinconico, ecco, insomma. Quindi il primo disco era del 2005, poi 2007 l'ultimo James Dean, e adesso nel 2010, ma è ancora così, sì, fresco, andante, sì, ancora, esatto, fresco. Questo doppio disco che ha due titoli e due copertine, si chiama Love Buzz, Love Burns. Dobbiamo sottolineare la copertina, una copertina che ricorda bello, volutamente, proprio l'odore, si può dire così, degli anni 60. Sì. Lo ricorda tanto e l'ho voluta fortemente questa cosa, perché mi sembra giusto e sacrosanto, insomma, cercare di coordinare quella che è la tua musica, il tuo mood, con quello che è poi il booklet, insomma l'intero lavoro grafico che c'è dietro a un disco, che per me, anche se oggi viviamo i tempi insomma della tecnologia, quindi, esattamente, via tutto, basta soltanto iTunes, invece a me piace fortemente l'oggetto fisico. Esattamente, che bello l'oggetto fisico, bellissimo, è bello, sì, d'accordo con l'iPod si può sentire, però è un'altra cosa, non ha quell'effetto. Una volta c'erano i vinili, che stanno ritornando adesso. Stanno tornando. Il piacere di aprire un vinile era tutta un'altra cosa. Sì, ed era anche una questione di, diciamolo, anche di dimensioni, perché sì, insomma un vinile, cavoli, è un piccolo quadro. È vero, è vero. E invece un CD è una cosa piccola. E allora per questo motivo, all'interno di questo doppio album, di questo doppio CD, ci sono due poster pieghevoli, con da una parte i testi e le foto, ma dall'altro riprodotte le due copertine del disco, quindi a grandezza vinile, per cui, certo, uno se lo può anche attaccare in camera. Esattamente. Insomma. E tutto questo discorso di grafica parte dalle tue idee, l'hai costruito te assieme a qualcun altro, oppure è una cosa tutta tua praticamente? No, assolutamente, è fondamentale l'apporto di altre persone, nella fattispecie sono una coppia, un ragazzo e una ragazza sardi che io saluto, vivono e lavorano a Torino, si chiamano Marco Fiori e Patti Pei, e sono gli autori di questo lavoro grafico dell'ultimo disco. Bellissimo. Ma anche del disco precedente, esatto, del sito, e anche, cosa ancora più importante, coloro che hanno ideato le grafiche del mio pulmino dell'amore. Parliamo di una cosa fondamentale, poi arriveremo. Però a proposito del pulmino, tu hai detto questo a proposito di questo terzo disco: dedico questo mio terzo disco, questi due album che fanno il terzo disco di Tao, alla strada, ai miei compagni di viaggio vecchi e nuovi, alla strada, al pulmino, il pulmino Svorbaga del 1974, meraviglioso, esatto, meraviglioso. Non è soltanto un banale pulmino quello a bordo del quale giriamo l'Italia e facciamo concerti, ha un suo nome, si chiama Tao Love Bus, cioè il pulmino dell'amore di Tao. Esattamente. È un pulmino, come dicevi tu, del 1974, che ha cambiato ben due motori. Però, quanti chilometri ha adesso? Oddio, ti posso dire che in questi 4 anni abbiamo fatto più o meno 120.000 chilometri, ma già ne va su 60-70.000. Però... per cui è una, insomma, è una bella avventura, e speriamo di motore di non cambiarne più per almeno, almeno qualche anno. E questo è un pulmino che devo dire è un pulmino magico, per rilacciarci agli Who, quindi certo, una sorta di magic bus che ha cambiato la mia vita davvero. È un pulmino magico, sì, tu hai parlato degli U, ma anche un pulmino magico americano, odore di California, secondo me, cosa dici? Sì, odora molto di California, e come ci stavamo raccontando dietro le quinte, esattamente. Diciamo ci sono stati diversi episodi che mi hanno fatto nascere la voglia di girarci a bordo, di inventarmi questa cosa folle di cui parleremo, però diciamo che la miccia che ha fatto, diciamo, esplodere tutto è stato un libro intitolato Peace and Love, scritto da Ezio Guaitamacchi, che salutiamo, grande Ezio, direttore di Jam, scrittore, tante altre cose, scrittore, critico musicale, autore, eccetera eccetera, e amico, e devo dire che ha scritto questa meraviglia che mi ha fatto venire voglia di respirare l'aria che si respirava soprattutto a San Francisco nella fine degli anni 60. E poi, a proposito di San Francisco, più tardi parleremo anche di San Francisco, of course. Benissimo. Adesso apriamo la nostra finestra con il primo pezzo che hai scelto da disco. Ti ricordi che titolo è? Oibò, il primo pezzo mi sa che è un pezzo abbastanza violento, e ha un titolo che è emblematico, vuole essere un consiglio, e non solo a me stesso, ma anche a tutti coloro che non possono fare a meno di fare musica. Una canzone piuttosto violenta nei suoni, ma ne sono fiero, si intitola Suona. Benissimo, dobbiamo sottolineare, i due dischi hanno due connotazioni differenti, due copertine diverse per due motivi differenti. Sì, assolutamente, hai centrato il nocciolo della questione, e questo riflette anche un po' la scelta che ho sempre fatto di sdoppiarmi a partire dallo pseudonimo, nome d'arte che ho scelto, che è Tao, che quindi il simbolo dello yin e dello yang. Certo. E quindi anche delle realtà abbastanza non solo opposte, ma anche spesso in conflitto tra di loro. Quindi questo doppio album ha una metà più solare, parla di un amore un po' più universale, un po' più sognante, se vogliamo, più incentrato sui desideri, e della metà love bus, e poi c'è l'altra metà che invece picchia più cazzotti nello stomaco diretti, che si chiama Love Burns, cioè l'amore brucia. Perfetto, lo sentiamo sto pezzo, poi ne parliamo dell'arrangiamento che mi interessa. Yeah. Ok. Voglio morire giovane prima che i denti cadano, prima che i sogni partano per non tornare più. Voglio morire giovane per non sentire crescere quel peso insopportabile che non mi lascia mai, oh mai. Ma poi ti stringo nel petto e faccio un dispetto al tormento che ho qui dentro. Io vivo per te e dentro il tuo letto mi sento protetto dal vento che chiama e chiede di andare. Inutili l'amore che ho per te. ma che il vento porti via questi miei pochi attimi di fragile armonia con te. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Allora, questo è un pezzo molto presliano. Parlavamo io e te mentre il microfono era spento. È sì, una piccola storia questo pezzo. Ribadiamo il titolo, come si chiamava questo pezzo? Allora, questo è fuori programma, nel senso che avevamo annunciato Suona, ma no, poi abbiamo cambiato idea. Esatto, esatto, abbiamo cambiato idea. Questa è una canzone che si chiama Voglio morire giovane. È un titolo assolutamente provocatorio, anche perché in realtà una canzone di amore, d'amore per la vita. E questo ci raccontavamo che è il primo pezzo, forse anche l'unico finora che ho prestato, tra virgolette, a un cantautore italiano noto principalmente negli anni 80, ma ancora in attività, e sforna cose interessanti, si chiama Garbo. Ricordo il fiume io di Garbo. Esatto. Pezzo bellissimo. E infatti, forse un po' questa canzone per certi versi musicalmente lo ricorda, sì, pesca è vero, un po' dal fiume, certo, da Heroes di Bowie. Esatto. E insomma, ci siamo conosciuti un po' di tempo fa, abbiamo fatto amicizia e gli ho detto: guarda, io insomma sto concludendo un disco, se tu vuoi, sei del materiale, insomma. Gli ho fatto sentire questa canzone, lui se ne è innamorato e l'ha addirittura pubblicata come unico singolo del disco, e devo dire, insomma, è stata una grande soddisfazione. Per te, ecco, certamente. Poi, diciamo, me ne sono appropriato nel senso positivo, in senso positivo, nel senso che ne ho fatto ovviamente la mia versione, un po' più rock. Sì, un Presley più accentuato, più veloce, esatto, dire, ancorato negli anni 80. Esatto, una sorta di Presley 80s. Esatto, Presley 80s, sì. E quindi così, è una canzone tra l'altro che amo molto fare dal vivo, anche a bordo del nostro Love Bus, e rappresenta una sorpresa perché quando noi insomma facciamo i concerti con il nostro pulmino dell'amore, molti si aspettano esclusivamente cose peace and love, sì, molto certo, californiane, un po' diciamo sognanti e spensierate. Invece la seconda parte degli show arriva, sì, bisogna soffrire un po', se no ragazzi. Esatto. Poi tu mi hai raccontato una bella cosa, che sei stato, continui ad essere temporaneamente per queste tre date, no, chitarrista di Alberto Fortis. Sì, Alberto, che saluto anche lui, così come saluto il buon Garbo. Alberto l'ho conosciuto nel, mi sembra, 2004. Ho cominciato a fare concerti proprio nell'estate del 2005. Appunto, sono chitarrista live di Alberto, quindi da un po' di anni, e devo dire che c'è da imparare tanto ad Alberto, perché ha una grinta dal vivo che è pazzesca. Ancora un grande seguito dei fan che non lo mollano mai, e insomma veramente gli auguro di ritrovare lo spazio che merita, perché è veramente un artista con gli attributi. È stato coraggioso, al di là delle polemiche che sono state instaurate tra il discografico e lui, che poi la polemica poi si è messa a posto. lui aveva iniziato con un pezzo molto importante, molto duro e molto sofferto. Era la sede di Lilla, vi ricordi? Sì. Sì, sì, sì, sì. Un pezzo molto lungo anche all'epoca. Non era semplice fare un pezzo di quasi 7 minuti. Guarda, hai nominato quello che è, insomma, il pezzo che preferisco di Alberto, che adoro suonare. L'ha presentato in tante versioni dal vivo negli ultimi anni. Addirittura anche quando io ancora non suonavo, la faceva quasi in chiave funky. Io però l'ho così chiacchierando nei nostri ritorni dalle prove. Mi ricordo una volta mi sono così permesso di dirgli, ho detto: guarda, come fanno Alberto, io ti dico che amerei che la sede di là tornasse ad avere un impatto come era una volta, esatto, cioè comunque un impatto, cioè, potente, molto forte, esatto, potente. Cercare di non alleggerirlo, ma invece anzi proprio ridargli tutto il suo peso. E la sede di là appunto è un pezzo estremamente drammatico, ma lì veramente Alberto si è messo a nudo e ha fatto centro, perché è la canzone con la quale chiude sempre i concerti ed è secondo me la più amata dal suo pubblico. Sì, sono d'accordo con te, un pezzo bellissimo, con una grande potenza vocale, una grande forza interiore, anche musicalmente. Sembrava molto semplice all'inizio, ma non era così, poi si allargava, si dipanava al massimo. No, ricordiamo che in quel primo album di Alberto, insomma, tra l'altro lui si è sempre avvalso di musicisti di grande calibro sul disco, e lì c'era la PFM. Certo. Era proprio lei. Però lì, insomma, Alberto, proprio a livello compositivo, secondo me, che poi era il suo primo disco, ha fatto vedere cose. All'epoca l'intelligenza cosiddetta musicale milanese era molto importante. Sì, sì. E adesso. Un po' meno, dici. Sì, decisamente meno. Milano, però. Posso dire che non vorrei poi essere fucilato, però come all'epoca con Alberto. Esatto, è una città spettacolare, però serve fondamentalmente una cosa, serve per scappare via. Ah, ho capito. Fino a come è stata adesso, speriamo a questo punto con un nuovo cambiamento, corso, che ci sia un wind of change, un cambiamento importante, totale. Perché ce n'è bisogno, insomma. Perfetto. Faremo a modo che sia così. Anche noi abbiamo un wind of change perché suoniamo adesso, Tao, cosa dici? Io direi di sì, se tu vuoi. Ma certamente è una cosa fondamentale. E tu hai citato Presley prima, io a questo punto, per rimanere in America, ti suono una canzone di un cantautore americano che è stato abbastanza contemporaneo di Elvis, meno conosciuto qui in Italia, ma io lo adoro, insomma, è Johnny Cash. Ah, e Man in Black. The Man in Black, esatto. E la canzone che vi suono è contenuta ovviamente in questo mio ultimo doppio album Love Buzz Love Burns. Non l'ha scritta Johnny Cash, ma l'ha scritta June Carter, che era sua moglie. Certo. E secondo me Johnny Cash ha fondamentalmente due cose incredibili: una voce pazzesca, e due, un amore gigante. Aveva una moglie incredibile con la quale ha veramente vissuto un amore fuori ogni limite, e spero che questa versione, insomma, sia nel mood giusto. Sì, sicuramente lo è. Yeah. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, this ring of fire, this ring of fire. love is sweet. When hearts like ours meet, I fell in love with you like a child. Oh, by the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, this ring of fire, this ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, this ring of fire, this ring of fire. Oh! Radio Rock Wave, l'onda del rock. Penso che Johnny Cash non sarebbe stato sicuramente soddisfatto. Cosa dici? Guarda, ti ringrazio. No, perché si vede che sentivi molto il pezzo. Beh, Johnny Cash è un personaggio enorme, come abbiamo già detto. Già quel giorno che Bono ha detto, lo canta meglio di me. One. Se l'ha detto Bono, vuol dire che veramente ha superato ogni limite. È vero, lui aveva questi demoni nello stomaco che insomma gli hanno fatto fare cose sicuramente anche abbastanza brutte nella vita, però incredibilmente quando un artista riesce ad attingere al lato scuro e insomma come ha fatto lui escono... E a trasformare questo lato scuro. A trasformare, hai detto una cosa giusta, a trasformare le cose. In altra energia, in musica, vengono fuori delle cose incredibili. Sì, poi quando è stato ripreso da Rick Rubin, che ha fatto i 4-5 capitoli, bellissimo. Ha fatto delle cose meravigliose, ha ripreso dei pezzi famosi e li ha rivissuti, li ha trasformati, sono diventati i pezzi di Johnny Cash. Al 100%. Assolutamente, c'è una canzone favolosa che hanno scritto in Nine Inch Nails che si chiama Hurt. Esattamente. Che è però lo stesso cantante della band in un'intervista ha detto, insomma, comunque Hurt, comunque adesso è un pezzo di Johnny Cash. Vedi, ed è vero, è bellissimo. Basta, cosa dire di più? Abbiamo detto tanto, parleremo sempre... Di Johnny Cash non siamo mai stanchi di parlarne, perché Johnny Cash è Johnny Cash, c'è poco da fare. Sì, sì, è un personaggio veramente che, devo dire, piace in modo trasversale, cioè puoi ascoltare metal, puoi ascoltare jazz, blues, qualsiasi genere. È di sopra di ogni cosa. Esatto, ha questo vocione incredibile che ti smuove veramente le emozioni più pazzesche. E emozioni pazzesche, tu in questo doppio album hai attinto negli anni 60, hai attinto negli anni 70, hai attinto negli anni 80, ma nel senso positivo del termine. Sì. Hai fatto una cosa tua personale avendo questi input. Sì, io non ho mai amato i cloni di qualcuno e mi sono sempre imposto dal primo disco che ho pubblicato, mi sono sempre fatto una specie di giuramento. Mm. Ho detto voglio cercare di fare con umiltà ma con convinzione, voglio cercare di essere in qualche modo a posto con la mia coscienza. E vorrei provare, visto che insomma comunque almeno gli anni 70 e gli anni 80 li ho vissuti. Negli anni 70 ero un bambino. Molto piccolino, però almeno i 70 e 80 li ho, ecco, vissuti fisicamente, mentre i 50 e 60 li ho conosciuti attraverso la radio, la televisione, i dischi, insomma tutta una serie di cose, e forse sono proprio i 50 e 60 quelli che incredibilmente ti sono stati più attaccati. Sì. E mi piace sicuramente non soltanto lo stile, proprio ciò che c'è dietro. Erano anni, probabilmente, forse perché erano gli anni del dopoguerra, certo, quindi certo. Anni di crescita, di vitalità, di voglia di trovare novità, assolutamente alla grande. Ma questo è stato in tutto, nel design, negli arredamenti, nelle automobili, in qualsiasi oggetto, e probabilmente insomma anche nelle persone questa cosa si riflette. Sono d'accordo con te. E la musica, devo dire, prodotta in quegli anni è stata la meglio musica, per cui io ho provato, ripeto con umiltà, ma a cercare di pescare da lì. E tu hai pescato attraverso il pulmino, questo giro in giro per l'Italia con questo pulmino meraviglioso Volkswagen, che ricorda assolutamente gli anni 60. Come tu hai detto, l'amore non è un difetto, la pace non è un concetto, e il sogno deve essere realtà. Anche quello è un sogno, questo pulmino che avanza, che va avanti. Guarda, me ne rendo conto man mano che va avanti questa cosa, anche se un po' ci ho fatto il callo, cioè non voglio dire che mi sono abituato, però mi accorgo sempre di più che non solo la gente ha bisogno di sogni, ma la gente ha bisogno di trasformarli in realtà. Certo. Cosa che era possibile proprio negli anni di cui stiamo parlando, gli anni urgenti. Poi qualcosa è andato storto, poi probabilmente a livello fisiologico, diciamo, determinati sviluppi dovevano arrestarsi, ma comunque determinati bisogni esistono sempre. E quando noi andiamo in giro con questo pulmino, è bello vedere le facce. Le facce, dimmi però, le facce della gente che ti vede con questo pulmino. Le facce sono le più disparate. Innanzitutto all'inizio, quando giriamo per le strade delle città, magari di pomeriggio per fare pubblicità a un concerto serale, devi vedere la gente che faccia, non si capacita di come sia possibile che tre individui stiano comodamente seduti all'interno di un pulmino di dimensioni, cioè all'interno siamo in uno spazio di un metro per un metro, insomma, quindi è una cosa veramente limitatissima, con basso, chitarra, batteria. C'è dentro il mixer, ci sono gli amplificatori, ci sono i monitor, insomma, c'è poi di tutto, di tutto, e i sorrisi che riusciamo a strappare alle persone sono incoraggianti, perché magari uno all'inizio pensa, ecco, i soliti esibizionisti, sono fricchettoni, fanno i fricchettoni. Poi però, quando la gente si ferma a vedere i concerti, ad ascoltare, quello che rimane è la musica, ed è quella la cosa più importante. Certo, questo è fondamentale. Poi il nome stesso, Tao Love Bus Experience, già Experience dice qualcosa di molto importante, perché gli Experience sono state la band di Jimi Hendrix, c'è poco da fare. Guarda, lì sapevo che diciamo sarei incappato in un diciamo in qualche modo in una citazione, non è stata volontaria, però mi fa piacere che allora experience vuole soprattutto dire esperienza, e non mi piaceva l'idea di chiamarlo Tao Love Bus Tour oppure soltanto Tao Love Bus. Quello che succede non è soltanto un concerto quando noi suoniamo, è un'esperienza per noi che la facciamo per primi, perché lì sperimenti la sensazione dell'essere tu il primo a fare una mossa nei confronti del pubblico. Solitamente è il pubblico che fa la prima mossa per andare a vedere un artista, in questo caso è il contrario. Quindi tu ti poni in modo gentile da un lato, ma dall'altro affamato di voglia di dare dell'emozione alle persone, e experience si spera che lo sia anche per il pubblico che assiste a un concerto di questo tipo. Certo, facciamo così. Adesso sono le 22:35, sentiamo un altro pezzo dall'album, da Love Bus. Abbiamo scelto la traccia numero 4, mi pare. Sì, io direi che se è quella buona. Sì, adesso partiamo e poi ne parliamo un momento, perché è una cosa molto interessante anche questa. Okay. Allora suona. Perfetto. radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eh sì, stiamo parlando con Tao piacevolmente. È un pezzo tosto questo Tao, c'è poco da fare. Duro, sì. Nel senso, ma duro nel senso positivo del termine. Sì, c'è il momento per dare le carezze, il momento per dare le sberle. Uh-huh. In questo caso, un po' seguendo l'insegnamento di un maestro ovviamente stra-inarrivabile come il buon vecchio Lennon, che sosteneva che anche le cose più rivolte verso l'esterno in realtà sono rivolte anche a se stessi. Suona, e quindi questo schiaffo è, voglio darmelo io per primo, voglio che questa canzone mi ricordi sempre quello che rappresenta la musica. Una volta si facevano dischi e questa cosa si percepiva, si scrivevano canzoni come se da quelle canzoni dipendesse il respiro, la vita di chi le cantava e di chi le scriveva. C'era una cosa veramente viscerale. Io ho giurato a me stesso che se devo pubblicare un album di plastica cambio mestiere. Ah, certo. Quindi se devo pubblicare qualcosa voglio che sia sentita veramente fino al midollo, e poi è chiaro, insomma, il giudizio del pubblico è sempre quello finale. Certo, però certo. L'importante è davvero essere a posto con la tua coscienza e fare le cose al meglio. Sono d'accordo con te. A proposito di essere a posto con la tua coscienza, nel pulmino suonate, dentro proprio il pulmino, un pezzo simile così potente, come viene fuori l'energia di questo pezzo? Guarda, non nego che questa è una delle canzoni che piace in assoluto di più, perché allora chiaramente quando tu registri su disco ci metti magari due o tre parti di chitarre, sì. Magari la voce la doppi, hai tempo di sbagliare, di fare. Questa è una canzone vecchio stile che dura, sì e no, tre minuti, sì, o qualcosa, per cui è tirata a mille anche con la voce, e quindi devi suonarla con un'energia anche doppia rispetto a quella che c'è su disco, e forse per questo devo dire il pubblico ci viene scatenato alla stragrande. Ah, bene. Sì, ci tiene, sì, moltissimo. Sì. Ricordiamo anche i validissimi musicisti che ti seguono sempre nel pulmino. Assolutamente sì, perché senza di loro non si farebbe nulla. E sono Giuseppe Fiori al basso, che è la mia spalla da 4 anni, praticamente ha iniziato con me questa avventura del tour a bordo del pulmino, la Tao Love Bass Experience. Giuseppe Fiori che suona il basso, fa i cori, suona la melodica, l'armonica, l'ukulele, quindi siamo, cose. Esatto, siamo in tre nel pulmino, ma nei momenti di vuoto c'è lui che riempie un po' tutto. E poi c'è Luca Campagnari alla batteria, che ha spazio per muoversi. Devo dire che non è facile per niente suonare con pochissimi pezzi, alla fine sono gran cassa, sì, rullante, tutto. Charleston è un piatto, quindi basta. Poco, molto scheletrica il discorso. E quindi devi essere davvero molto in gamba e suonare, essenziale suonare groovy, sì, come si dice. Certo. E non tutti i batteristi credo siano capaci di farlo. Poi lui suona molto vecchio stile. Ah, okay, okay. Quindi devo dire, cioè, non preme l'acceleratore, no? Tira via il punto dell'acceleratore, lo preme alla grande. Lì bisogna premere l'acceleratore il giusto, perché sì, un po' troppo è un, come si dice, un po' di confusione all'interno della band. Guarda, tu immagina cosa vuol dire suonare in uno spazio davvero che cioè è un terzo rispetto a questa stanza. Certo. Anzi no, cos'è? Un quarto. Insomma, una cosa ridicola, e lì si è a stretto contatto però si sviluppa un'alchimia incredibile, giustamente. Bello, molto bello, molto positivo e molto innovativo, possiamo dire. Per l'Italia assolutamente sì. Guarda, ti dico candidamente che è l'unica cosa che esiste in Italia così, credo onestamente, sondando il terreno su internet, che anche a livello europeo è l'unica cosa, chissà, magari... Negli Stati Uniti qualcosa ci sarà. Non si sa, io ti dico, finora non ho mai visto nessuno, non sono mai venuto a conoscenza di qualcuno che suona dentro un pulmino Volkswagen, e il nostro obiettivo per l'anno prossimo di... provare all'estero. Ah, di andare bisogna, sulle strade giuste. Bisogna, sì. Benissimo. Sì. Ok, adesso suoniamo, cosa dici Tao? Io direi assolutamente di sì, e soprattutto proverei a fare una canzone che è stata il mio inizio discografico. Sì. Una canzone che non ho scritto io, ma è stata portata a successo nel 66 da un gruppo che si chiama The Rocks. Ah, The Rocks. esatto, capitanati da Shel Shapiro. C'è un episodio su questo. Sì, c'è un episodio su questo. Io ho conosciuto il buon Shel perché anni fa, quando feci il video di Che colpa abbiamo noi, lo chiamai per chiedergli di fare un cameo alla fine, un'apparizione alla fine del video. E lui, devo dire, è stato un signore, perché per telefono gli ho detto: guarda, insomma, Shel, se tu puoi, se hai tempo, calcola che questa è una, insomma, una cosa indipendente, per cui quindi, non c'è niente. Appunto. E lui, con col suo inconfondibile accento, fa: certo, capisco. Così è venuto, non ha chiesto niente, l'unica cosa che ha chiesto è stato un caffè. Perfetto. Guarda, veramente un grande. E quindi gli devo questa canzone, che si chiama Che colpa abbiamo noi, e che fa così. Ok. Cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai, ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché, se non pensiamo come voi, ci disprezzate come mai, ma che colpa abbiamo? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi? Una ragione forse c'è. E se non la sapete voi? Oh yeah. E se non la sapete voi? Ma che colpa abbiamo noi? Che colpa abbiamo noi? Che colpa abbiamo noi? Che colpa abbiamo noi? Noi, noi, no, noi. Che colpa abbiamo? Oh, oh, oh. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Bellissimo, che colpa abbiamo noi? Era un hit single del 1966, quando sono venuti i Rocks. I Rocks hanno trovato il Colorado, hanno trovato l'oro in Italia, sì, praticamente. Sì, sì. Addirittura leggevo che in quel periodo in Italia vendevano più dei Beatles. Sì, sì, ho detto anch'io così. Una cosa molto importante per loro, assolutamente. Poi, cavoli, erano stilosissimi, cioè erano belli da vedere. Avevano le famose chitarre, ti ricordi come a freccia? A freccia, come esatto. No, costruite, si può dire, dalla Echo, mi pare, all'epoca. Sì, sì. Per loro, esattamente. Hanno fatto il design apposta per loro, è una cosa incredibile. No. Il Piper è un propulsore di eventi all'epoca. Il Piper sì. Hanno creato loro. Cioè, grazie a loro il Piper è diventato il Piper nazionale. Sì, sì, è vero. Insomma, c'era anche Patty Bravo. C'erano Patty Bravo, eccetera. Però cavoli, i Rocks, insomma, adesso purtroppo credo se li ricordino sempre meno, però insomma li consiglio perché hanno scritto e cantato cose davvero molto belle. Poi avevano questo suono con le 12 corde. Bello, sono belli. Fighissimo. Poi hanno fatto dei pezzi, anche delle cover molto importanti. La pioggia che va era un pezzo di The Lind, quindi è una cosa bella fatta bene, perché le cover sì, c'era la mania di fare le cover, però fatte dai Rocks erano fatte bene, non erano fatte male. È vero, assolutamente. Poi la voce di Shel Shapiro secondo me era incredibile, perché che non ha mai imparato l'italiano nonostante sia 40 anni che... Ma lui è apposta secondo me. No, cosa guarda dici? Che è incredibile, se tu lo senti parlare, lui ha una proprietà di linguaggio italiana pazzesca. Però ha l'accento inglese, è vero, sì, hai ragione. Cioè, ha imparato la sostanza, ma la forma, secondo me, se la tiene apposta perché così. Sa che parlare così. E poi è stato anche produttore, ha prodotto dei dischi importanti, ha fatto tante cose. Ha scritto anche cose per Mina. Certo, insomma. Certo, anche per Cocciante, quindi una persona di un certo livello. Ah, certo, grande Shell. Grande Shell. Ok, adesso ho letto in un'intervista che tu ameresti fare un libro, è vero questo discorso? È una tua idea, un Easy Rider fatto da Tao. Sì. Mi piacerebbe tantissimo. Mi piacerebbe fare un libro, così come mi piacerebbe tantissimo riuscire a coronare il sogno di girare un film documentario. Quindi probabilmente legare le due cose. Perché comunque la Tao Love Bus Experience, ovvero questo tour funambolico che stiamo facendo a bordo del pulmino, che non ha fine, che va avanti. Che va avanti da 4 anni, dal 2007, e credo che sia una storia che merita di essere raccontata, anche perché al di là dell'aspetto più gioviale, ovviamente nasconde delle motivazioni che non sono assolutamente gioviali, ma sono anzi comunque drammatiche, ma non vuole essere, diciamo, una cosa un po' stile Casi Umani a Costanzo, ma mi piacerebbe riuscire a realizzare questa cosa, perché potrebbe magari aiutare anche un po' di persone a far sì che i propri buchi, le proprie perdite affettive e fisiche, certo, anche possano essere superate, esorcizzate attraverso la musica. La musica, con la M maiuscola. Con la M maiuscola, ma la musica intesa come azione, come amore. Ecco, quindi alla fine credo che tutto sommato la musica sia il linguaggio dell'amore per eccellenza. Certamente. Io adesso abbiamo deciso di sentire la traccia numero 6, sempre dall'album Love Bus, che è un singolo molto accattivante. Tu dici, non ho ancora avuto l'idea, ma per me è una cosa che prende immediatamente. È incredibile questa cosa, perché quando l'ho scritta non ne avevo minimamente l'intenzione, e ti dico che, sempre per non smentire il mio aspetto taoistico, quindi da una parte all'altra, da un opposto all'altro, in realtà, nonostante il titolo, che è Accendo una candela, certo, quindi che dà speranza, io ero in un momento di totale collasso, e quindi è una canzone disperata e di speranza. Ecco, perfetto, sempre quindi le due cose. Le due cose vanno a braccetto insieme. La sentiamo allora, ok? Yeah. No, non è questa, non è la 6. Era la 6 però. Eh sì, è questa. Questa è la 6. Ok. Vabbè, basta. Basta, succede niente. Non succede niente. Basta. Accendo una candela e che la luce sia per questa sola notte la nostra compagnia. Accendo una candela per scaldarci un po', l'accendo perché credo che stanotte non dormirò. Io vorrei guardare il mondo senza sentirmi andare. è sacra finché tu l'amerai. Accendi una speranza per questo cuore che muore se rimane solo senza te. Blu Radio Veneto. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Stiamo piacevolmente conversando con Tao, parlando di questo corposo doppio album, perché io parlavo prima con lui, prima di cominciare il programma, e essere coraggiosi a fare un doppio album coi tempi che corrono, Tao. È fatto tutto da te, perché prodotto da te, autoprodotto, hai fatto tutto da te. Sì. Chiaramente con altri ti hanno dato una mano. Ce lo siamo detti all'inizio, io ti ho risposto così che ci vuole anche un po' di incoscienza, sì. Forse, ma l'incoscienza secondo me confina ancora una volta con l'amore. Certo, sì. E quando di una cosa te ne frega veramente tanto, ma tanto tanto tanto, sì, il portafoglio lo guardi ma giusto di striscio. Sì. E allora la cosa più importante è fare qualcosa di bello, qualcosa che insomma che uno si possa portare a casa e davvero ascoltarsi tante tante volte, come si faceva una volta con i vecchi dischi. Non vuole essere una cosa spocchiosa quella che sto dicendo, sono cosciente che nella musica, nel rock, nel linguaggio pop rock è stato scritto tutto. Però se uno non fosse convinto di fare delle cose di qualità non verrebbe in radio a fare interviste, non pubblicherebbe dischi, non andrebbe in giro. A bordo di un pulmino, esatto. Colorato e centinaia, ecco, di chilometri. Per cui certo. Devi anche un po' certo avere l'umiltà, ma avere anche essere convinto di quello che fai, certo, cioè, certo. Convinto di negli intenti almeno di portare della qualità. E quindi fare un doppio disco in quel momento era importante, perché arrivava da tre anni di tour, perché il tour è iniziato nel 2007 proprio in concomitanza con l'uscita dell'album precedente che si chiamava L'ultimo James Dean, certo. E in tre anni abbiamo visto tante cose, abbiamo vissuto tante esperienze con la band, insomma contatto con le persone. Lo slogan del nostro tour è infatti il concerto che va dalle persone. E la mia visione anche delle cose, del mondo è cambiata, ma continuerà a cambiare sicuramente. E mi sembrava giusto far tesoro di queste esperienze pubblicando un album che avesse due facce, due le mie facce, due facce, sì. Quindi dolore e la speranza, possiamo dire questo. Sicuramente. L'amore e la tristezza. Certo. Certo, l'amore e la tristezza che spesso coincidono, ma anche no, per cui cioè l'amore è il filo conduttore, poi diciamo l'album si suddivide nel cosiddetto viaggio, che può essere mentale o fisico, infatti la metà Love Bus lo testimonia. E può anche essere bruciante, infatti la metà Love Burns, certo. Testimonia anche questo. Sai, della parola amore forse oggi si abusa un po', un po' troppo. Però io sono convinto che insomma ci sia anche un aspetto dell'amore che è forse anche quello più interessante da raccontare, che è quello nei confronti della vita, delle cose, delle passioni che tu hai. Certo. Quindi, certo. Questo, e la musica è una grande passione che non morirà mai, secondo me. No, non deve. Assolutamente morire. Cioè, l'unica cosa che ci rimane, certo. È quando vedo gente che la sporca e la utilizza, la maltratta solo per farne soldi, insomma, la cosa veramente fa incavolare tanto. Sì, questo è vero. Adesso facciamo una cosa, sono le 23 precise, sì. Suoniamo un pezzo e poi facciamo il solito giochetto che fa parte della struttura di Rockaway. Ah no, la lasci perdere. Okay, okay, sì, sì, no, perfetto, no, perfetto. Sennò dopo è troppo caldo. Ah, perfetto, capito, perfetto. Ho capito. Okay. Ok. Cosa suoni, Tao? Allora, per rimanere in tema con le robacce che ho detto finora, una canzone anche questa con titolo provocatorio, ma nel quale ci credo. Mm-hmm. So che è una delle tue preferite del disco e quindi te la suono dal vivo. Si chiama A Song Can Change the World, ovvero una canzone può cambiare il mondo. A song can change the world as a star can light a sky. A song can change the world as a tear makes shine your eyes. As your smile can fire my eyes. A song can change the world as a rose can burn your heart. A child can change a man and the end becomes a star. And the end becomes a star. I need a reason to live and not to die. A worry is not a reason but a lie. A just a rose can be my sword. Only a love song can rule my world. A song can change the world as the touch of a woman can make you breathe. This song is my love embrace. Like the arms of your father, it will make you feel strong. Like the arms of your mother, it will make you feel safe. I need a reason to live, not to die. A worry is not a reason, but a lie. A just a rose can be my sword. And only a love song can rule my world. Only a love song can rule my world. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, è un pezzo bellissimo questo qua, che io mi sono innamorato di questo brano, l'ho subito recepito, io e il nostro direttore artistico Alberto Prisco abbiamo inserito nel programma che facciamo e gira continuamente in radio e mi fa piacere, secondo me, perché è una cosa veramente fatta bene, con un certo predisposizione molto californiana per me. Io sì, amo la California, amo quelle sonorità. E qui chiaramente qui l'hai fatto in versione acustica, che non è propriamente simile, ma è abbastanza simile rispetto a quelle del disco, praticamente. Sì, con qualche variazione. Sì, diciamo che sul disco forse magari c'erano due chitarre anziché una, esatto, e sì, un coro, però insomma, il mood è quello. Il mood è questo. Sì, sì. Sono le 23:04, stiamo piacevolmente conversando con Tao, che ti sta presentando la sua musica e il suo nuovo prodotto. Adesso facciamo la solita domanda: i 5 dischi da portare su un'isola deserta, a tuo piacimento, puoi andare dove vuoi e puoi tornare dove vuoi. Guarda, è la peggio domanda che potrei farmi, perché porca miseria. Diciamo che 5 dischi ruotano a seconda del periodo. Certo. Quindi mi sembra doveroso magari poterti dire quello che in questo momento benissimo mi porterei dietro. Sicuramente un disco dei Beatles. E vorrei andare in assoluta controtendenza. Tutti si aspettano magari Revolver, certo, Sgt. Pepper, insomma i più concettuali, l'album bianco. Io il primo, Please Please Me. Ah, perfetto. Perché senza quel disco meraviglioso registrato in un solo giorno non sarebbe stato possibile tutto il resto. Non sarebbe diventata una leggenda. Assolutamente. Partita da quello. E poi bisogna sentire come cavolo canta Lennon in quel primo disco, che era completamente conciato, raffreddatissimo, ma ha spremuto se stesso fino al midollo. Quindi Please Please Me. Poi porterei dietro sicuramente The Joshua Tree, degli U2. Come mai gli U2 hai scelto The Joshua Tree, che secondo me personalmente lo trovo il più bel disco che hanno mai fatto? Qualcuno dice non è vero, però a mio parere, sempre a mio parere chiaramente. Guarda, mi fa impazzire perché ci sono i vecchi U2, quelli che arrivavano dalla New Wave, ma ci sono anche gli U2 che vanno alla scoperta delle loro radici. È una testa di ponte, possiamo dire. Sì, assolutamente, assolutamente sì. E poi c'è un disco che inizia con Where the Streets Have No Name, continua con I Still Haven't Found, e come terzo pezzo With or Without You, basta. Tutti cioè, i pezzi da 90, sì, c'è poco da fare. E poi confesso che With or Without You, nonostante io non abbia una grande simpatia per gli anni 80, per quello che hanno significato, è forse la canzone che in assoluto... Ecco, Michele l'ha pescata, bellissimo. Ragazzi, mi vuoi far piangere a questo punto? Bellissimo. Madonna, ragazzi. Cioè, cosa si può dire di una cosa così? C'è poco da fare. Basta, silenzio religioso. Incredibile. E quindi Joshua Tree sicuramente. Poi, ma guarda, mi porterei... Porca miseria. Bella domanda. Ti potrei dire A Night at the Opera. Perché mai Queen? Perché Queen? Perché i Queen sono, per certi versi, rappresentano quello che per larga parte non mi piace, cioè l'ostentazione, il lusso, ma è secondo me il narcisismo diciamo a servizio di un'inventiva folle. Cioè i Queen intanto hanno avuto una delle voci più meravigliose che il panorama rock abbia mai regalato al mondo, certo. E poi veramente erano un quartetto, insomma, che sulla scia dei Beatles, insomma, ha sviluppato alcune delle cose. Ecco, sono in sottofondo. Esatto. Io sicuramente Night at the Opera rappresenta i primi Queen, quindi forse all'apice di quello che era la loro inventiva, il loro anche essere un po' barocchi, se vogliamo. Però ha dentro dei pezzi che sono, cioè, una Bohemian Rhapsody. Quello è proprio barocco nel senso positivo del termine. Esatto. Non negativo. Esatto. Barocco alla Freddie Mercury. Esatto. Love of My Life, That on Two Legs, cose veramente apocalittiche. E quindi sicuramente una di opera. Poi ti devo dire, in questo periodo sono in questo periodo da un po' di tempo amo follemente un cantante americano che è stato sicuramente offuscato dalla bellezza e dal talento di Elvis, ma che aveva una voce che, a detta di Elvis stesso, era la miglior voce bianca di quegli anni. Roy Orbison. Oh, Pretty Woman. Esatto. E io sfortunato, persona molto sfortunata. Molto sfortunato, ma anche lui fino alla fine ha lottato. Sì, ha lottato. E Roy Orbison aveva una voce impossibile, cioè veramente un angelo, e quindi mi porterei dietro anche una raccolta di Roy Orbison, tranquillamente, che andrebbe sicuramente bene una raccolta di Roy, perché ha fatto tante cose ma un po' sparse, e una raccolta concentra tante cose meravigliose che ha fatto, in qualche momento un po' meno, però si è sempre tirato su, dopo, al di là delle cose che poi sono capitate. Sicuramente, non so a che punto sono, se mi manca il quinto disco. Manca uno. Guarda, porca miseria, Bella domandona, bella domandona. Potrei dirti un American Four di Johnny Cash, però potrei anche dirti cose completamente differenti. Facciamo per le cose completamente differenti. Johnny Cash l'abbiamo citato un sacco di volte. Una band che io consiglio, che è sconosciuta in Italia. I Rush sono un trio canadese molto conosciuto all'estero, soprattutto Germania, Olanda, esatto. Inghilterra, beh, Stati Uniti, Canada. Su questo probabilmente ti ho spiazzato. Pensavo di no. Crash, non pensavo che tu citassi i Rush. Sono invece un mio amore folle dell'adolescenza, perché io ho passato, diciamo, l'infanzia nel filone diciamo inglese e anni 60, e invece l'adolescenza mi ero strippato per il filone prog, quindi King Crimson, certo. Rush, Genesis, eccetera eccetera, ma i Rush avevano qualcosa di particolare. E poi lo consiglio vivamente come ascolto a tutti i batteristi. Abbiamo delle buone aperture, decisamente buone, ecco, per cui o 2112 o Permanent Waves, mm-hmm. Moving Pictures, insomma, hanno fatto tante cose molto interessanti, e soprattutto sono poco noti alla massa, per cui sono poco noti alla massa anche perché sono un po' stati dimenticati in alcuni momenti. Sono stati dimenticati in alcuni momenti, però incredibilmente potere della tecnologia e grazie a internet, ti posso dire che probabilmente ora, oggi, nel mondo, a parte Italia a parte, che qui siamo, è un'altra cosa, sono credo più conosciuti adesso che hanno più di 60 anni a testa, che non all'epoca, nel pieno della loro genere. Esplosione musicale, è incredibile, perché sono stati rivalutati, riapprezzati, e Rush Forever. Certamente, ho letto nelle classifiche di Billboard, non c'entrano niente con i Rush, però per i gruppi di un certo periodo, i Journey sono stati rivalutati perché sono stati inseriti nella colonna sonora di un telefilm americano, sono ritornati i Journey, non è un granché, in alcuni momenti avevano delle cose positive, però sono ritornati in classifica per quel motivo là. Quindi il discorso purtroppo anche della televisione, che provoca cose positive e negative allo stesso punto. Del resto, ragazzi, purtroppo c'è tantissima buona musica, ed è purtroppo sempre più sommersa da tantissime schifezze, e quindi bisogna, insomma. Però una cosa, tu hai citato Nick Drake a microfono spento. Sì. C'è stato tu lo sai sicuramente, un famoso spot pubblicitario, grazie della Volkswagen. E grazie a questo, fortunatamente, molta gente è ritornata, ha scoperto Nick Drake. È una cosa meravigliosa, nella bruttezza della cosa, perché scoprire Nick Drake uno spot pubblicitario non è proprio così. Però è stato positivo riscoprire questo musicista straordinario, è stato Nick Drake. È stato straordinario, anche lui molto, molto sfortunato, e ha fatto questo disco, mi sembra si chiamasse Pink Moon. Esattamente, proprio Pink Moon. Bellissimo, uno pensa, vabbè, cavoli, chitarra e voce, nient'altro, chissà che palle. No. Invece, meraviglioso, delle melodie bellissime. Anche lui si percepiva l'influenza beatlesiana, onestamente. Però veramente un gran disco, e insomma sarebbe bello che di personaggi così ce ne fossero tanti. Ma probabilmente ci sono in giro, sono. Devono però venire fuori. Adesso sentiamo la traccia numero 9, sempre da Love Bus, mi pare. Ti ricordi il titolo? Dovrebbe essere La grande estate dell'amore. Perfetto, la sentiamo e poi ne parliamo, ok? We'll be right back. di fiori, lei dipingerà i colori e noi saremo il suono della grande estate. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo sentito questo pezzo con un'apertura alla Rickenbacker. Rickenbacker, io e Tao amiamo molto la Rickenbacker, questo suono berziano, questo suono degli anni 60 che chiaramente se parte dagli anni 60, poi tanti altra gente l'ha sperimentato la Rickenbacker. Poi il finale è un finale tosto, sì, sì. Con la batteria che danzava, pestava nel senso positivo del termine. Come mai questo pezzo così diversificato, costruito? Ma mi piace mescolare le varie influenze. Un arpeggio iniziale con la Rickenbacker che però si protrae per tutto il pezzo è già un marchio di fabbrica. Cioè la Rickenbacker 12 corde è uno strumento che, insomma, come dici tu, veniva usato tantissimo negli anni 60, inizi 70. Insomma, celebre l'arpeggio di Hardest Night piuttosto che Ticket to Ride. I Birds la usavano tantissimo, certo. Insomma, quindi proprio è il suono di quella generazione. E volevo che una canzone dal titolo La grande estate dell'amore, che parla di sogni che devono trasformarsi in realtà perché non ne possiamo più, non poteva non essere suonata con una Rickenbacker 12 corde. E tra l'altro quella Rickenbacker 12 corde in modo particolare è un regalo del mio caro papà. Capito. E quindi ci tengo particolarmente anche per quel motivo. E poi, come dicevi tu, nel finale la canzone Pesta giusta, pesta giusta. Sempre riallacciandoci a prima, sono importanti i sogni, ma bisogna anche lottare, picchiare duro per realizzarli. Picchiare duro, chiaramente, in senso metaforico. Certo. Però è importante sbattersi. Sì, un critico, ho letto qualche critica, molte, tutte molto positive sicuramente del tuo disco. Un critico ha scritto questo: i brani sono sicuramente molti e spesso capita, quando i brani sono tanti, che gira e rigira, a un certo punto sembra sempre di sentire la stessa musica, è lo stesso trio e di trito arrangiamento. Per Tao no, è diverso, è una cosa bella, perché per Tao, perché Tao crea, continua a creare nonostante siano tanti pezzi, non c'è un gira e rigira, non è lo stesso arrangiamento. No, assolutamente, infatti non è un caso, con le dovute proporzioni e per carità di Dio, insomma, non è, però uno degli album che adoro in assoluto, di quei geniacci dei Queen, A Night at the Opera, sì, è l'emblema di quello che secondo me insomma è bello sia la musica, cioè che non sia omologata, ma sia cioè che un disco possa contenere tanti stili, tante sfaccettature diverse, perché alla fine noi come individui siamo tante personalità messe insieme, rivestiamo ruoli completamente diversi nella vita, e questa cosa si riflette anche nella musica, quindi è giusto in un disco, soprattutto se fai un doppio album. Eh sì, appunto, perché appesantisce, ci sono tanti pezzi e spesso capita che c'è un caduta di tono, mentre nel tuo disco, no, perché sei qua davanti, ma l'abbiamo già detto anche con Alberto, non c'è caduta di tono, c'è sempre una questione di novità continuamente, pezzo dopo pezzo, c'è sempre una costruzione di pezzo dopo pezzo, una ricerca del pezzo dopo pezzo. Guarda, a proposito di ricerca di pezzo dopo pezzo, hai detto una cosa fondamentale, perché uno pensa, quando registra il disco, la difficoltà sia nel arrangiarlo, registrarlo, produrlo, mixarlo, masterizzarlo, eccetera eccetera, ma tu non sai che casino è stato fare la tracklist di un doppio disco. Ah, cosa incredibile. Cioè, anche perché all'inizio si pensava di fare un unico album e con meno canzoni, ma poi ho detto no, io le voglio pubblicare tutte e voglio suddividerle, ho coronato questo sogno che ho sempre avuto di creare due scompartimenti, e come se si fossero due Tao, un Tao più solare e un Tao più cupo, più dark. Certo, più dark. Ed è stato comunque un casino incredibile riuscire a mettere, ad alternare i pezzi e creare una sequenza che potesse portare l'ascoltatore, insomma, a un crescendo emotivo sempre più potente. Mi dicevi 3 anni di costruzione per fare questo doppio album. Sì, sicuramente, e poi chiaramente più passa il tempo più devi cercare di quagliare, come si dice, certo. Per cui è chiaro che il rush finale poi è sempre negli ultimi mesi. Ti raccontavo che appunto il grosso del disco è stato registrato nel mio studio casalingo, che però insomma abbastanza attrezzato, sì. Ma in modo... Sei perché tu a Milano praticamente? Sì, proprio in un condominio, al quinto piano, per cui figurati, i vicini come sono stati contenti, però hanno sentito cose che l'ascoltatore non può sentire, perché tu quando registri uno strumento per volta, certo. Ma poi quello che tu senti è tutto l'ensemble, invece questi qui si sono assorbiti magari 20 volte in cui provavo una parte di chitarra, quindi Rick and Beck era go-go. E le batterie ovviamente non le ho registrate in casa, ma in uno studio in Emilia Romagna, e poi sono andato alle Officine Meccaniche a Milano, uno studio di Mauro Pagani, a mixare tutto. Studio molto importante. Assolutamente, però il disco è stato masterizzato da un mio amico, il cui studio si chiama Pinch Mastering, e lui è di Padova. Ah, lo salutiamo allora. Grande Frankie High Energy Donadel Campbell. Benissimo. Quindi questo è stato il percorso di questo doppio disco praticamente. Sì, un bel percorso che continua anche adesso, perché è un album con 21 canzoni. Certo. Che io reputo insomma valide e piene, merita di essere promosso il più a lungo possibile. Diciamo sicuramente anche grazie a internet e grazie ai tanti concerti che facciamo, un album gode di vita molto più lunga, sì, rispetto al passato. In passato, a meno che un album non diventava veramente una hit incredibile, poi insomma finiva nel dimenticatoio. È vero. Quante ore dura il tuo concerto, visto che sono 21 pezzi, cioè nell'album nuovo, poi ci sono i tuoi dischi precedenti, la durata del concerto? Guarda, solitamente è raro che duri meno di 2 ore. Ah, perfetto. Per cui diamo molto dal vivo, assolutamente. Poi chiaramente cerchiamo di miscelare anche con i classiconi del rock, però certo. Rivisitati secondo quello. Cioè mi piace portare i classici dalla mia parte, dalla tua insomma, parte. Dal nostro sound. Non fare mai le versioni che sì. avrebbe fatto, non so... negli anni 60, cioè... sì, esatto. Riprese, ma copiate nel senso, cioè, non cambiato assolutamente nulla. Certo, bisogna mantenere nello spirito, ma farle come, cioè, insomma, come tu, quello come che sono i tuoi mezzi. Esattamente. Cioè. Cosa suoniamo, Tao, adesso? 23:25. 23:25, io direi che è giunto il momento, secondo me, di fare un salto a San Francisco. Ah, sì, un salto molto, un grande salto, un salto meraviglioso a San Francisco. Sì, in una San Francisco che non so se esiste ancora al giorno d'oggi. La San Francisco della quale parliamo è quella del finire degli anni 60, in modo particolare della Summer of Love. Certo. Nel 1967 a San Francisco probabilmente un bel gruppone di persone chiamate Figli dei Fiori, o hippie se si preferisce, pensavano di poter cambiare il mondo. In qualche modo sono riusciti a cambiarlo. Non completamente, ma quello che voglio dire è che se vai a San Francisco devi assicurarti di portare i fiori tra i capelli. Certo. If you're going to San Francisco, be sure to wear sunflowers in your hair. If you're going to San Francisco, summertime will be loving there. If you're going to San Francisco, summertime will be loving there. In the streets of San Francisco, gentle people with flowers in their hair. All across the nation, such a strange vibration. People in motion, people in motion. There's a whole generation with a new explanation. People in motion, people in motion. All those who come to San Francisco, be sure to wear sunflowers in your hair. In the streets of San Francisco, summertime won't be a loving there. A loving there. If you go to wait, some flowers in your heart. Oh, if you're going with me to San Francisco, summertime will be loving there. Loving. love him there. Summertime will be forever if you want, if you want. Summertime will be together if you want, if you really want. Love is all you need, and love is all we need. Love, love is all we need. Oh, love, love. If you're going to San Francisco, be sure to wear sunflowers in your hair. If you're going with me to San Francisco, summertime will be forever. Forever and ever, forever, ever, love. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, Tao ha sudato, ragazzi, però il sudore di San Francisco. A proposito di San Francisco, c'è una cosa che Tao mi ha raccontato prima di cominciare la trasmissione, e me, quel racconto che mi ha detto, che mi ha sollecitato, mi ha fatto ricordare queste atmosfere meravigliose degli anni 60. Vai Tao, dimmi cosa mi hai raccontato. Ti ho raccontato che un paio d'anni fa, anche di più, avevo registrato una versione chitarra e voce di San Francisco. Sull'album invece, insomma, è suonata. Sì, esatto. Ma avevo registrato questa versione e così, preso da un raptus, sono andato su internet a cercare il sito di Scott McKenzie, Che è il cantante del pezzo, anche se l'autore è John Phillips. Bravissimo, l'autore John Phillips era il fondatore dei Mamas and Papas. Esattamente. Ma John Phillips oltretutto organizzò il festival di Monterey, quello che poi lanciò Janis Joplin, Jimi Hendrix. E anche prodotto Scott McKenzie. E produsse Scott McKenzie e scrisse per lui questa canzone meravigliosa che divenne un po' l'inno degli hippie. San Francisco, If You're Going to San Francisco. Esattamente. E Scott McKenzie, insomma, che adesso è un signore di 70 anni, ha questo sito e io sono andato a scovarglielo. Il sito ovviamente non era gestito da lui. Scrivo una mail a quest'altro signore e mando l'MP3 del pezzo, raccontando quello che faccio col pulmino, insomma, che giro l'Italia e che mi avrebbe fatto piacere semplicemente che lui ascoltasse questa versione. Il giorno dopo, per farla breve, mi arriva una richiesta di amicizia su MySpace da Scott McKenzie. Ah, bellissimo. Non solo, mi arriva un messaggio privato, una mail da Scott McKenzie. E questa mail, bene o male, il contenuto me lo ricordo a memoria. E ha scritto una cosa tipo: ciao Tao, mi è piaciuta molto la tua versione della canzone, molto toccante, e mi è piaciuto molto il fatto che tu giri con il tuo pulmino Volkswagen, e devi sapere che quando ero giovane io e John Phillips giravamo l'America a bordo di un pulmino uguale al tuo. Perfetto. Ecco. E poi ho scritto una cosa: ho ascoltato anche le altre tue canzoni in italiano, e anche se non capisco la tua lingua, sono convinto che la tua musica faccia del bene alle persone. E poi l'ultima frase ricorderò per sempre: you keep the spirit alive. Perfetto. Peace, Scott. Sono impazzito. Ho pianto per mezz'ora, come ti ho detto prima, e insomma, è una grandissima soddisfazione, si può da fare. Sì, è stata una cosa incredibile e la custodisco gelosamente nel cuore, così come insomma incornicerò la mail che ho stampato, ovviamente, prima o poi chiaramente sì. L'appendo a casa. Dobbiamo ricordare che John Phillips è l'autore anche del Living on Jet Plane di John Denver. L'ha scritta lui. Ragazzi, John diciamo Phillips poco, era un autore di grandissima importanza. Sì, sì, sì, sì. Anche lui, insomma, ha avuto delle vicende un po' strane, un po' particolari. Tutti quelli di quella generazione. È vero, è vero. Anche se ha fatto un album recentemente di cui ne abbiamo parlato abbastanza bene. Però sai, l'epopea era rimasta a quel momento, ai Mamas and Papas, ai suoi pezzi scritti per Scott McKenzie, per John Denver. Sì. E poi si è un po' dimenticato, era logico che ciò capitasse. Quello era il momento focale. Sì. Io penso che quella fosse un po' la gioventù, l'adolescenza del rock per certi versi, o comunque di un certo tipo di musica e di cultura, sì, forse certo. Anche della società, della nostra società, sì. era veramente un momento in cui si sognava fortissimo. Qualche giorno fa, mi pare il 4 settembre, ricorso l'anniversario della pubblicazione di If You Could Remember My Name di David Crosby, sono passati del 71, mi pare, sì. Quindi ragazzi, proprio il 5 settembre o il 4 settembre, anche quello ha portato a un cambiamento. Un critico ha detto, non so se sei d'accordo, adesso ti faccio la domanda, quello ha concluso l'estate dell'amore, If You Could Remember My Name, e ha cominciato un'altra stagione. Sì. Un sì. Disco splendido, un disco incredibile, dai Birds passando a lui. Lui è diventato, dopo chiaramente ha avuto dei problemi anche lui, adesso verrà in concerto a Padova fra un mese, cioè a novembre. Fantastico. Però If You Could Remember è un disco epocale, ha segnato un'epoca. C'è poco da fare. Ma le epoche effettivamente hanno le proprie colonne sonore, quindi è anche bello che sia così, no? Certo. Poi uno deve anche avere la fortuna, insomma quelli erano anche tempi in cui le case discografiche davvero sapevano il fatto loro, sì, e riuscivano, certo, a valorizzare anche gli artisti, però diciamo che il pubblico era anche ben educato a recepire, sì, certe, certo, cose. Certamente. Suoniamo ancora, cosa dici? Sono le 37, abbiamo ancora più di qualche minuto. Abbiamo ancora qualche minuto, allora fammi fare un cambio chitarra. Sì, facciamo il cambio chitarra, tutto dal vivo, si tutto, cambia la chitarra tutto dal vivo. Davvero. Aspetta che mi levo le cuffie, che sennò è un casino. Esattamente. Oh, adesso usiamo un altro tipo di chitarra. Prima, che tipo di chitarra hai usato te per i pezzi precedenti? Allora, nei pezzi precedenti ho usato una 12 corde. Esattamente. Una vecchia Echo Ranger, che era la chitarra degli italiani negli anni 60 e 70. La famosa Echo, sì, esatto. Hai ragione. Che però, guarda, insomma, va ancora bene. Ma sì, sento in registrazione e in radio che c'è un suono ottimo, fettissimo. Anche visivamente ben messa, sì, cioè, sì. La tratti molto bene, possiamo dire questo. Assolutamente sì. E poi invece qui ho una piccola Epiphone acustica accordata in un modo un po' particolare, e una cordatura in re che mi permette di usare un po' di basse di, certo, questo tipo. E allora, visto che mi hai detto che il primo pezzo era molto presleyano, sì, molto presleyano, lo rifacciamo. Non posso, guarda, no, ti faccio direttamente una cosa di Presley. Ah, che bello, cosa di Elvis, del grande Elvis. Speriamo di ricordarmela nell'arrangiamento che avevo trovato un po' di tempo fa. Allora, vediamo. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender. love me true. Oh, my dreams fulfilled for my darling. Love me tender, love me long. Take me to your heart, for it's there that I belong. And love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years till the end of time. I'll be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. Be yours for all the years till the end of time. Blu Radio, Rock Wave. L'onda del rock. Ok, benissimo, abbiamo sentito il personale omaggio di Tao a Elvis. Elvis, cosa è stato per te, Tao? Elvis, abbiamo parlato di 50, 60, sì, sì, 70, sì, sì, 80. Spesso è un po' il primo amore di molti artisti. Io invece l'ho apprezzato in età più matura. Ah, un po' più tardi, insomma. E incredibilmente io lo associo anziché alla sua dirompenza fisica e alla sua rottura a una dolcezza e una malinconia incredibili. Che magari non c'erano, non erano così visibili nel personaggio di Elvis, però traspaiono dalle sue ballate. Certo, dalle sue ballate, hai detto una cosa. E che forse alla fine sono le cose più belle, più struggenti che rimangono. Pezzi come Love Me Tender, con Can't Help Falling in Love, certo. You're Lonesome Tonight, sono dei piccoli capolavori. Chiaramente non li aveva scritti lui, ma il modo in cui li ha interpretati, esatto, cioè era come fossero suoi praticamente, una cosa incredibile. E quindi Elvis è per forza uno col quale prima o poi devi fare i conti. Certo. E una cosa a proposito di ballate, io ricordo l'ultimo periodo di Elvis in The Ghetto. Bellissima. Ah, che bellissima quella, là, che poi l'ha fatta anche Michele in Italia. Madonna, sì. Che Michele è un po' Elvis italiano, anche Bobby Solo un Elvis italiano. Poi Michele, siamo anche fisicamente ci assomigliamo. Ha un vocione incredibile. Esattamente, Michele, eh? Michele suona ancora, gira ancora con la sua band, eccetera. E in The Ghetto era un pezzo molto interessante. L'ultimo periodo di Elvis, chiaramente, il grande successo da singolo, poi non ha fatto più successi da singolo, anche se Elvis ha venduto, dicono, 500 milioni di copie, dicono. Dicono, ma se anche fossero 400, insomma, sì, sono talmente tante. Ma guarda, a me piace molto quell'Elvis, perché ecco, lì veniva fuori forse davvero quello che lui dentro di sé. Uno pensa all'Elvis come un po' quello spaccone, quello un po' esattamente, no, sai, filo Nixon, sì. Cose, ecco, un po' così. Ma in realtà una canzone come In the Ghetto, che parla proprio del dramma del ghetto, della storia di questo bambino che nasce ed è già destinato a un futuro terribile, certo. È una canzone che, messa in bocca a lui, ha una magia incredibile, davvero. È pazzesca. Vero. È una cosa molto molto bella. Allora facciamo così, sentiamo un pezzo da disco, quello numero, la traccia del secondo disco, quello sotto, esatto, numero uno, Dimentica si chiama, mi pare che sia così. Assolutamente è così, e qui invece ci caliamo in un filone musicale abbastanza diverso, un po' Pulp Fiction, un po' Shadows, ma anche un po' New Wave, sì, di quella inglese, come si deve. Sì, sì, un po' inglese, perché l'Inghilterra e l'America coincidono, si aggrappano, non si dividono, secondo me, in questo disco. No, assolutamente no, direi, sono un connubio, sono le due facce della stessa medaglia alla fine, ribaltate. E tra l'altro, a proposito di Inghilterra, abbiamo avuto la fortuna, io e la mia band, di suonare al Cavern Club proprio l'anno scorso per un festival europeo, e ne abbiamo approfittato per girare proprio il video di questa canzone. Perfetto. Abbiamo girato un po' dentro il Cavern Club, un po' per le strade di Liverpool, e quindi insomma, del resto il pezzo è abbastanza power malinconico. Adesso lo sentiamo, ok, lo sentiamo. Dimentica, dimentica che muore, dimentica. dimentica e non sarai più niente. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito Dimentica. Salutiamo un momento la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia. Sono tre rockettare che ci sentono sempre. Yeah. Ok, e questo è un arrangiamento molto giustamente, come hai detto te, che si ancorava, che si attaccava agli anni Ottanta, con questo, sì, questo veloce finale, questo, questa voce che corre sì, chiaramente, sì, sì, sì. E fa parte chiaramente del tuo doppio album. Dove si può trovare il doppio album? Anche fisicamente, se uno vuole. Allora, fisicamente è stato distribuito nei negozi di musica. È inevitabile dire che quando lavori comunque con una piccola etichetta, cioè dipende molto dalla promozione che hai alle spalle. Certo, per cui, certo. L'etichetta qual è? La tua, l'etichetta è la mia piccola casa discografica, però con la quale devo dire sfornato tre album, per cui, insomma, regge. Tiene botta, come si dice in Emilia. Quindi non so se ancora c'è qualche copia nei negozi in giro. Sicuramente potete trovarlo sul sito direttamente, potete ordinarlo da lì. Le spese di spedizione sono ridicole, il costo è ridicolo, ma lo trovate anche durante i concerti di Tao a bordo della Bus. E a questo punto ricordo il sito, certo, che è www.taovox.com, vox come voce in latino o come il vox, l'amplificatore. Perfetto. Storico. Qualche data di concerti te ricordi, Tao? Allora, dunque, il 9, cioè questo venerdì, siamo a Orbitello in Toscana. Bene. Poi saremo il 18 a Pioltello, fa tutto ello, che invece però è vicino Milano. Il 24 invece saremo a Faenza in concomitanza con la Notte Bianca del May. E poi a ottobre adesso dovranno venire fuori altre cose. Altre comunque, insomma, ci sono. È ovvio che il grosso dei concerti lo fai d'estate, certo, e con l'autunno si tranquillizza un po' tutto. Però è anche meglio, perché almeno riesce a scrivere un po' e a creare. E poi fai riposare il pulmino. Il pulmino che ne ha bisogno. E ne ha bisogno. Poverino. Ok, allora facciamo un pezzo e poi ne faremo un altro. Dai, yeah. Cosa suoni adesso? Allora, un fuori programma, una canzone che fa parte della metà oscura dell'amore, quindi Love Burns. Certo. La canzone si chiama Scrivere. Mm-hmm. Ed è nata da una poesia breve breve, la canzone fa così. Prenditi pure le pause che vuoi. Scrivere non può essere una mera abitudine, né un vuoto passatempo. Scrivere è vivere. Non sempre ci si riesce. Si passa più tempo a morire che a vivere. Ed è quando ci si è stancati di morire che si ricomincia a scrivere, perché scrivere sempre ci si riesce. Ah, oh, vivere. Non sempre ci si riesce. What I want. Oh, there is a light that never goes out. There is a light that never goes out. And the light is love, love, love, love. Non sempre ci si riesce. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eh sì, siamo verso la fine stasera, però è stata una bella cavalcata tra due ore quasi piene, dalle 22:05 fino ad adesso, quindi quasi 24, due ore piene, parlare della tua musica. Bah, è una cosa molto molto importante, secondo me. Guarda, se tutte le faticacce fossero queste, ci metterei la firma fino alla fine dei miei giorni. Una no. Faticaccia bella, positiva. Molto, dai. Molto, assolutamente sì. Devo davvero ringraziarvi di questo, perché... Due ore dedicate a un artista, insomma, sono tante, e quindi sono convinto che con la vostra trasmissione riuscite a scoprire insomma degli artisti sicuramente interessanti, e soprattutto riuscite a dare la giusta voce, il giusto tempo, che certo. Al giorno d'oggi è veramente oro. È vero. Ricordiamo un momento la tua band e anche i grafici meravigliosi del tuo disco. Assolutamente, la mia band, ovvero i Magic Flowers, sono Giuseppe Fiori al basso e ai cori, Luca Campagnari alla batteria. Cito anche però il nome del mio fonico, che certo. È Giorgio Baù, senza il quale non si potrebbe ovviamente lavorare, ma cito anche comunque il nome del nostro vecchio fonico, che è anche quello che ha inventato, cioè, ha messo in pratica la formula del Love Bus, che è Andrea Borgnino. Perfetto. Della DB Sound. I grafici che hanno realizzato James Dean è questo qua, esatto, il Pulmino dell'Amore, nonché quest'ultimo disco Love Bus Love Burns, il disco precedente all'ultimo James Dean, hanno fatto il sito MySpace, l'ira di Dio, li abbraccio, loro sono la Fimao Design, alias Marco Fiori e Patti Pei. Perfetto, concludiamo con cosa, Tao? Io direi di chiudere così come abbiamo iniziato. Certo. Abbiamo iniziato con una canzone tratta da questo mio ultimo album, l'abbiamo sentita in elettrico dal disco, adesso perché non sentirla in acustico live. Grazie. Si chiama Voglio morire giovane. Grazie a Michele Toson, grazie a Tao e grazie ai nostri ascoltatori. Buonanotte e a risentirci. Buonanotte a voi. Voglio morire giovane prima che i denti cadano, prima che i sogni partano per non tornare più. Voglio morire giovane per non sentire crescere quel peso insopportabile che non mi lascia mai, oh mai. Non mi lascia mai. Ma poi rispetto al tormento che ho qui dentro. Io vivo per te dentro al tuo letto. Mi sento protetto dal tempo che chiama e chiede di me. Na na na na na na na na oh, oh. E chiede di me. Na na na na na na oh, oh. Voglio morire giovane solo per non distruggere quella potente immagine di te e di me così. Voglio morire giovane solo per non disperdere in troppe cose inutili l'amore che ho per te. Ma poi nel petto e faccio un dispetto al tormento che ho qui dentro. Io vivo per te e dentro quel letto mi sento protetto dal tempo che spale e chiede di me. Na na na na na na na. Voglio morire giovane prima che il vento porti via questi miei pochi attimi di fragile armonia. Die today, come there and dream, dream as if you'll live forever. Come there, live as if you'll die today. Come there and dream as if you'll live forever. Wake up the heroes. Just for one day, wake up the heroes. Just for